9. Ascolta e controlla. 1. Stette tutto il giorno a casa finché non furono tutti arrivati. 2. Telefonai a Maria dopo che ebbi messo tutto a posto. 3. Scrissero un'email appena ebbero chiarito i termini del contratto. 4. Cominciai a lavorare dopo che tutti furono andati via. 5. Facemmo un breve viaggio appena fummo riusciti a sistemare al meglio tutte le cose. 6. Lei non si addormentò finché tutti gli ospiti non furono rientrati. 7. Giovanni fece molte cose in giro per la città dopo che ebbe accompagnato i figli a scuola. 8. Voi usciste dopo che aveste finito di studiare?